Energy perché stavo scrivendo un messaggio e quindi stavo leggendo quello che mi hanno mandato. Antonè, che problemi avevo avuto? Allora, visto dove c'è la carica, in pratica la carica è agganciata allo stilo centrale tramite la lamella, capito, che c'era quel rame che è saldato, si è risaldato in pratica, hai capito? Anche Giuseppe Leoncino si sente la cosa, l'è capitato. Adesso quando ne butta giù la penna devo saldargliela e fargli un gancetto, capito? Metti una vite in modo che rimanga ferma la carica, e almeno non si muove più. Ma io questi problemi non li ho mai avuti. L'ho presa, piazzata e messa sopra. Non mi ha mai detto problemi, ce l'ho messo sopra. Ah, che l'ho avuta, ma a me problemi non mi hai mai dato la mia 27 L. L'ho salita, c'è lassù vario eccezionale, quello che lavorava nel camion, l'avevo regalata a lui. E l'ho lasciata sopra al tetto, poi ho detto piazzatela tu se la vuoi piazzare, e l'avevo regalata anche il cavo e il baracchino, e l'hai inventato. Invece non ha piazzato niente. Poi un'altra mia 27L, no, la lingua l'avevo regalato, quella che mi aveva dato Marco, l'avevo sistemata e l'avevo salita, l'ho piazzata a Usilo, a un amico. Quella c'è la passione dei baracchini antichi, capito? E a me l'ho usata per ascoltare qualche volta la lingua. La lingua ho voluto modificarla, perché di solito quelle antenne hanno quella specie di plastica intorno, si scende lo stilo. Allora devi metterci una vite in modo che rimanga bloccata e poi metterci il silicone intorno. Dipende pure dalle persone che si tentano che di piazzarla, come la toccano, la fanno, capito? Non è che se ne intendono, però se la vanno metto automaticamente, involontariamente però. E vabbè, avanti, bombolo. Cappa, no, ma molti l'hanno montata la Energy, quella lì, e non ha mai dato problemi. Oh, strano. Adesso vediamo io con questa boomerang grande se come va, vediamo un po' come va. E molti hanno detto che lo tiro centrale dopo un po' di qualche anno si spezza. Vediamo un po' come va col vento. Dai, entro io al volo. Sì, confermo Antonio, mi si è spezzato a me diversi mesi fa, perché praticamente c'è lo stilo d'alluminio infilato praticamente in un bullone filettato di ottone, come prende ossido si apre come una banana. Io infatti sono salito sul terrazzo e l'ho trovato in terra. Io ho fatto un accrucchio con delle fascette, sai, quelle strici tubo in acciaio inox cromato. Ho lucidato bene, ho intaccato con la lima le due parti per appiattirle in modo che facessero bene il contatto. Io ho messo le strici tubo piccoline, l'ho isolato, nastrato tutto e l'antenna funziona anche un bisciù. Prima di che mi rompere il cazzo le biglie della codugliozzo. E poi si poteva fare anche un'altra cosa, prendere il tubicino leggermente più grande, sempre l'alluminio, metto in mezzo, tipo manicotto, metto due viti e si è a posto. Via. Sì, anche questo avevo pensato a quel suggerimento, ma avendo le fascette strigitubo era la soluzione più pratica e migliore. Ascolta, Tony, ma stai usando un microfono da palmo o da tavolo? Da tavolo, carne più tre, quello nero. Caparoce, si sente il riverbero della stanza, dai, comunque arrivi fortissimo pure tu, siete tutti più, siete positivi. E il super Siderica, capito? Diciamo che questo è il carne madre, diciamo, la perla nera. Eia, no, arrivate tutti a bombolone qua. Vabbè, siamo a parte tu, comunque siamo tutti abbastanza vicini. Avanti a lei. Pompucci, si è spostata. Io ce l'ho già 6 anni sul tetto, questa Energy. L'ho piazzata esattamente a maggio del 2014, sì, sono 6 anni e spiccioli, dai. Sembra bene, giusto come antenna. Sì, perché io non volevo spendere 150 euro o giù di lì per una mantova, poi volevo, allora il requisito che volevo io, Tony, per farla breve, il requisito essenziale è che sia leggera l'antenna. Io non voglio tiranzare, non voglio cavi, non voglio dovermi azzuffare in condominio, capito, già lo sai com'è. E quindi volevo un'antenna leggera da montare con un palo basso e senza tiranzare. Infatti questa esce dal gabbiotto, esce solo di 2 metri. Il palo è da 3,70 m, più il palo sollevato da terra, guarda, credo che da terra sia grosso modo 4,5 m da terra, ed esce di 2 metri dal gabbiotto, niente tiranti, leggera. Beh, io sono in calo terra, c'ho un bel muretto, ho messo 6 metri di palo più l'antenna. Mi è caduto radiale perché mi stavo, quando l'ho piazzando, ero solo, mi stavo cadendo perché mi sta troppo contrappeso, mi stava facendo, che c'è un tubo da 2 pollici praticamente. E quando poi l'ho piazzata sopra, tutto mi sono accorto che il radiale era per terra, e ho detto beh, la posso perché dovevo sollevare, rimetto l'altro radiale, tutto qua. Ma adesso sta andando sempre bene, perfetto. E c'ho anche un barilotto, cosa che mi sono trovato addirittura a Roma di... Ho 30-40 litri di cavo, tutto nuovo, infatti quando lo scendo metto il cavo unico. Comunque, arriva abbastanza bene, quello mi interessa. Sì, è di lusso, poi anziché 4 watt, se uno ne può mettere 10-20 è di lusso, di lusso. Io attualmente sto usando, tolto il filtro, saranno puliti, saranno 10-11 watt e non sono nemmeno necessari, mi ha detto tutta, bastano 4. Cappa, dimmi se c'è differenza così, o ma così, guarda, così... E così, 1, 2, 3, prova. Allora, primo passaggio 9+20 costante, anche modulando. Secondo passaggio Santiago 9 modulati 9+15. Vabbè, mi conviene lasciarlo così, dai. 10 watt. Eri prima normale? No, questo apparato c'ha già 10 watt, 4 watt e 10, capito? C'è la bombolina. Ho capito, c'è più 4 watt normali dalla casa. E nasce già così, non dalla casa. Tira, dai 4 c'è il Galaxy. Ah, ho capito. Ma il Saturn per caso, ce l'ho avuto anch'io. Bravo, e con questo microfono si sposa bene. Era uno vendendo 150 euro sul mercatino, su Facebook. Prendilo subito che va a fare. Io se vendo questo con questo microfono, minimo i 350 non lo do. Scappa, ce l'ho avuto, ce l'ho avuto tanto. Ma ce l'avevo anni fa, me. Diciamo che questo apparato c'ha tutto, non ne manca niente, capito? Rosso, che batte, non so. E cosa ne manca? Ma bene, mira. Sì, Antonio, sei entrato. Mi prendi, oh Luca, sì. Tutti sposati, riprendi Marconi. Ehi, lascio poi la contona io. Prima, quando ho messo l'antenna nel 92, appena venuto in questa casa, ho messo la stessa antenna che ha Antonio adesso, e credo anche il profeta, era la LEM, la boomerang della LEM, quella lunga. C'era dal 92 al 2013. Pensa che lo stilo ha resistito a quella terribile tromba d'aria del 2008. Cioè io quando ho tolto nel 2013, che avevo messo la Ringo, poi dopo un anno l'ho buttata la Ringo, c'era lo stilo intero, tutto intero, si era spezzato invece il radiale. Io credevo il contrario, credevo di trovarla senza stilo, e lo stilo aveva resistito 21 anni. E quindi già, come è fatto a rompersi? Dove è detto tu, dove c'è quel dado di ottone lungo? All'anima del vento, boh. Vabbè, cosa ne so, Marco lì. Quando sono salito in terrazzo ho trovato il radialino in terra, ho controllato praticamente il dado, quello in ottone lungo, e si era aperto come una banana. Vabbè, si frasicheggia, cosa ne so. Già, vai, l'antenna era già di seconda mano. omaggio di Daniele, quindi era, gli ho fatto quella crocchio lì, adesso si muove, oscilla, però va, funziona che come la figlia. A parte che, cioè, sinceramente parlando, a livello proprio meccanico, cioè lo stile in alluminio dentro quel bullone lungo filettato almeno 3 cm, 4 cm, cioè di alluminio ne entra forse 1 cm, e quindi praticamente a livello di oscillazione meccanica è proprio, è proprio la parte più debole, infatti si è truncato i givi, capito? Io l'ho smontata l'antenna, l'ho lucidato bene, ho appiattito un po' le parti in modo che appoggiassero bene, stiamo parlando di 5 cm in superficie, ho appiattito con la lima sia lo stilo grande che lo stilo piccolo in modo che appoggiassero bene, e poi gli ho messo le stringi tubo, quelle in acciaio inox, quelle piccole, l'ho isolato con nastro e tutte cose, e resiste, funziona ancora. Eia. Sì, mi ha stupito trovare lo stile intero della mia, ripeto, identica alla vostra, la LEM Boomerang, quella lunga, quella tromba d'aria del 2008, quella specie di tifone, non so come definirlo, ma era allucinante quella volta. Non credo che dal 2008 abbiamo avuto fenomeni del genere, e quella è una cosa eccezionale. Toglimi una curiosità, funzionava ancora, non funzionava più però? Non credo, Antonio, io avevo tagliato il cavo da su, avevo tagliato il cavo e tolto anni prima, non credo, il radiale era spezzato invece, il proprio radiale era marcio ed era in terra sulla terrazza. Ma avevo una perdita eccezionale, pensa che all'epoca io, per non spendere soldi, avevo messo 50 metri di RG58 più un quarto d'onda di antenna, avevo, vabbè, a parte l'antenna, il cavo dava un bel di perdita, e quindi per lo più ascoltavo, non c'era più tanto, capito, insomma. Vabbè, questa volta ho preferito 5 ottavi e cavo grosso. Ma non è che faccia granché attività io, Antonio, di ex volevo fare tante cose, volevo pigliare la patente, poi mi sono fatto il conto in tasca, troppi soldi, troppo tutto, non... Infatti quelli esuli li ho dati, non... le antenne, cioè se vuoi antenne buone sono costose, serve spazio, poi qua c'è un condominio, è una cosa drammatica qua, il terrazzo non è mio, il terrazzo è di proprietà di un altro condomino, proprio comprato da lui, e quindi la cosa è un po' più tribula. Forse è stato il mio il terrazzo, ci avrei fatto un pensierino sopra, dai. Meno male che io posso piazzare anche una direttiva di 40 elementi, per dirti, ho tutto lo spazio che voglio. Sì, lì è un bijou, se tu c'hai proprio spazio pianeggiante ti puoi sbizzarrire come vuoi, puoi mettere long wire, dipoli enormi, a V rovesciata, a V, come ti vuoi. E qua, vabbè, sarebbe stato bello, però troppe spese, troppi soldi. Poi l'857 l'ha preso Pomponio e non si ribazzi nulla, io posso fare un plinto qua al centro e mettere un traliccio 15-20 metri, non ho problemi. Figurati pure il traliccio, a voglia se ce ne sta di una roba. Io ho pensato, in condominio cosa si può punire, la cosa più discreta sarebbe una verticale multibanda, però poi rende, se è una cosa, rende poco, è come avere un'antenna da macchina, veicolare, come se eri in macchina, tipo Diamond CP6 oppure Pro System, quella 10, 20, 40 con i radiali caricati, no? Però c'è sempre 5 metri di antenna e con le, come si chiamano, le trappole, antenna trappolata, rende poco, cioè non ne vale la pena, Mifoni. Allora, ho lasciato parlare tutto e ho venduto le cose grosse, diciamo. Qualcuno si è parlato sopra, forse c'era Alessio, avanti. E quando la depressione, capito? Se mi va bene quest'anno, se no l'altro anno. Ciccia. Per adesso niente, non voglio fare niente. voglio solo riposarmi e basta. No, forse ho parlato io, ho detto a Tonino che lui può fare quello che vuole, no? Non lo disturba nessuno. Chi è che va a rompere le scatole in casa sua lì? È tutta roba sua. Ma guarda, tra l'altro ho anche altra abitazione, però non disturbo nessuno, ho capito. Forse la salire 15-20 metri. Ma infatti non c'è nessun problema. Gatto. Signori, 10-20, devo fare una cosa urgente. Devo fare la massa, non so quanto mi trattengo. Se ci siete dopo rientro. Ok? Buon prosimo. Ciao a tutti, continuate. Ciao ciao. Ciao Tony, a da voi. Ehi, ciao ciao. Ciao Tony, a più tardi oppure ritieniti salutato, dai, anch'io non tarderò a chiudere. E neanche io, tra poco farò io su e mi boto la doccia. Ehi, Pomponi è rientrato, così lo salutiamo al limite. Cioè io lo saluto io menando, niente, Pomponio è annegato nella birra. E Luca, c'era anche Luca, Luca! Cappa, deve essere va a fare che imbriaco, pieno di birra, ha giusto dare il rubino, ma manco andà di più. Ehi, ehi. Va bene, signori, ne approfitto al volo, dai, sono le 10:15. Allora, ciao Antonio, ciao Gianni, Luca c'è l'ascolto, Antonello c'è l'ascolto e vabbè, tutti quelli dell'ascolto faccio prima. Ci sentiamo quando capita, ok? Buonanotte a tutti e boh, Gianni vai. Eia, capo positivo, poi il filmone dell'altro giorno che adesso mi sfugge il titolo, c'era un anime e poi un altro film nella merda visione, adesso non mi ricordo, comunque cosa hai scelto? Allora, ho scelto l'anime, però come dire già, non un po' diverso da. Mi aspettavo una cosa tipo Akira, no? Non so se. Era disegnato in stile. Infatti il disegnatore è quello. Porca miseria, Astro Boy, ecco, uguale, proprio stesso disegnatore, un po' lento, insomma, alla fine non credo di essermi pure addormentato, non l'ho visto, sono stato maggioretta all'inizio, però, no, preferisco roba tipo Akira, tipo Ghost in the Shell, quelle cose cyberpunk strane, no, vabbè, siamo capiti. Ma anche lì c'entrava sempre roba di androidi, solo che era diverso un po', sviluppato in modo diverso. Quando avrò un po' di pazienza me lo seguirò. Ehi, andavè. Dai, vabbè, colgo l'occasione anche io per salutarvi tutti, dai. Adesso vediamo un po' cosa, come conciliare il sonno, magari anche io mi guardo qualcosa nel mio archivio. Niente, dai, rilanciamo all'altra boomerang del centro storico, avanti a tu. E capa. Dai, buonanotte, Marco, ce la risentiamo domani. Io se capita, tanto perché poi io sono sempre non ho costanza nelle cose, poi ci sono periodi che sto anche settimane che non entro perché non boh. Dai, sono fatto così, dai, quando ci sentiamo quando possibile, ma tanto già se ne trova gente, o un canale o l'altro già trovi gente, tanto non è quello il problema, ok? Dai, buonanotte a tutti, alle prossime. Buonanotte. Già, e oggi se parliamo di un canale differente forse diventa un po' problematica la cosa, lo sai. Aspetta che saluta Marco, Antu. Salutoni Condor, dai. Anche Tonino e Luca se l'ascolto, dai. Ci sincronizziamo prossimamente. Non ho capito a cosa ti riferivi, Antu. Detto che se parliamo in un canale diverso dall'altro diventa un po' problematico. E boh, vabbè, canale ce ne sono cantoni voi. No, non è un problema per me personalmente, quindi, cioè, che sia il 10, l'11, dal 40, sopra, sotto, Andiamo e boh. E forse non hai compreso. Se tu parli su 10 e io parlo per esempio sui 15 o parlo sui 20, non lo gioco se tu riesci a sentire quello là e io riesco a sentire quello là. Vabbè, questo apparecchio è già un pochettino silenzioso. Non lo gioco care che piglia più coipe. No, guarda, il mio è abbastanza selettivo. Molto selettivo, quindi rarissimamente, a parte magari qualcuno che è attaccato, però dico, ma di un paio di canali, però è abbastanza selettivo, è pulito, c'è una buonissima ricezione, quindi da quel punto di vista non ne ho problemi, a tu. Vabbè, bisognerebbe provare. Lo sai cosa, che siamo tutti forti, non ci sono problemi, però magari se c'è qualcuno più che ti arriva col segnale più debole, lo sento dentro sicuramente, perché avendo molta vicinanza può capitare, capito? Probabile, sì. Guarda, io personalmente ho così come sono, ho fatto diversi DX, mi sono levato svariate soddisfazioni, ti posso dire, per come sono messo nel mio piccolo, cioè microfono, radio, antenna, va proprio un bijou, quindi proprio per dirtela proprio papare a livello proprio personale, non mi posso lamentare, va benissimo. È proprio il minimo sindacale, mi è va proprio un bel bene. Cappa, a che vai, consiglie? Ma se io domani ho l'intenzione di bigliarmi un 140, in oggi la cosa è problematica, perché se magari anche se sono sul 20, cazzo, il codugo è dappertutto in questa zona, anche quelli appena più lontani. Lo sai come quella radio esce un bel forte. Ho capito. Vabbè, sperimentare bisogna, cioè, poi alla fine, ti ripeto, sperimentare, ma io ti ripeto, personalmente ricevo tutti i forti, guarda, qua a Sassari, poi anche gli amici da Portatore, da Ossi, insomma, da c'è coso, come ti chiama, che da Rugginito, da Muros, e quindi, cioè, per dirti, nella posizione in cui sono e come sono messo, quindi è tutto molto relativo, tanto anche tu c'hai ragione, poi bisogna vedere anche cambiando alcune cose cosa esce fuori. Adesso perché ciò che sto usando questa radio così e sono tranquillo, ma io non vengo che pongo roba più pesante, uiuia. Allora si intende le matracche. Vabbè, dai. L'importante è farsi sentire poi alla fine. Con il giusto. Anche con una piccola radio. Tipo quella che ho io, come ti ho detto, che è il Super Star con il display, dai. Gentile regalo di Marco Condor. Perché questa era una radio sua, dai. È bella. No, ma poi a me mi piacciono, la verità. Cioè, va bene, cioè, se ce l'ha avuto il Super Star, mi ha avuto. No, già sono belle radio, è la verità. Uia. Vabbè, dai, esci che vado. Mi faccio la doccia, mi drommo un po' perché sono il tracco. Domani a Manzano sono a Ugucco. Qualche giorno vieni che ti prendi il caffè. Ok. Bene, Nera, grazie per l'invito, dai, Antonio, dai. Ci sentiamo qua in frequenza e ci mettiamo d'accordo, dai. Fate una bella doccia rinfrescante e dai, alle prossime. Io qua chiuso la baracca e quindi QRT esecutivo per me, dai, un salutone. Ok, ciao, ci risentiamo, ciao. ciao ragazzi, buonanotte anche a voi, a domani. Luca, buonanotte. C'è questo, dove mi vedi? Hai una ramara. Se vuole la ruzzi. Buonanotte, sto controllando le stazionarie. Manco ci muovi. Ciao Antonio, ciao Gianni, ciao Marco, ciao. Ciao Luca, alla prossima, dai. Ci si sente a presto. Bye bye. Ciao Gianni. Bye bye, ciao ciao.